Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Staccai il dito dal campanello, meravigliandomi di essere stata lì fino a quel momento. Molto tempo doveva essere passato, perché il cielo era divenuto verde, e ansiosa di scendere al più presto gli scalini e con il primo tram tornare in centro. Contavo anche di rimandare la mia visita domani, ma nella parte più segreta della mia coscienza c'era il proposito ben determinato di non ritornare in quei luoghi mai più. Pensiero e movimento morirono però sul nascere, in una specie di silenzio interiore, fatto di contrarietà e attenzione, dovetti constatare che l'ammezzato non era più deserto. Nella penombra di quella stanza c'era adesso un giovane in maniche di camicia, il viso sottile e inchinato, che guardava perplesso verso la porta. Forse stava là da tempo e io non me n'ero accorta. Non lo avevo visto ed egli mi aveva riconosciuta e osservata, benché non una linea del suo viso, nulla, assolutamente nulla, esprimesse la minima attenzione e piacere. Mi ricordai che una volta avevamo litigato, ma questo non giustificava una freddezza così mortale. Poco dopo nacque in quel volto un sorriso e vidi che, zoppicando, il giovane si accostava alla porta. Aveva in mano una sigaretta e la buttò nell'atto di aprire. «Entra pure», disse continuando a sorridere in quel modo, lo sguardo dovunque meno che dove io ero, e porgendomi la mano sudata. «Scusami se ho la mano sudata. Come stai?» «Io? Bene». Entrando avevo avvertito intorno a me l'aria raccapricciata delle cantine e dei cimiteri. «Molto bene», ripetei turbata. «Anita deve essere di là col bambino», disse lui. «L'ho supposto vedendoti entrare». Buttai lì queste parole senza senso. «E tu? Come stai?» Mi ero seduta vicino al grosso tavolo e pensavo che non bisognava guardarlo, perciò gli voltavo le spalle. Non lo vedevo eppure lo sentivo, ma piuttosto come un'assenza che una presenza. Era come se dietro le mie spalle ci fosse una voragine, un vuoto pieno di mani, che battendo l'una sull'altra ne nascesse un rumore desolato, un sospiro senza fine. Per farmi coraggio, guardavo le cose intorno, ma mi riconfermavano quella sensazione sottile di morte, quel punto imprecisabile in cui, nella vita, nasce la sconosciuta dimensione, il silenzio della morte. Sentendolo passeggiare e come non aveva risposto alla mia domanda, pensai che la cosa migliore fosse ridurre al minimo le mie vibrazioni, i pensieri. Bandire dalla mia stessa mente o confinarle in un angolo ristrettissimo quelle voci che, presentando un qualche rapporto con la vita, non potevano che turbarlo. L'avrei calmato provandogli che anche la mia intelligenza era stata, dalle necessità della vita, mortificata e vinta. Dovevo mostrarmi fredda, senza forza né gioia. «Luigi, dovrei chiederti delle indicazioni che tu solo puoi darmi. Per questo sono venuta». «Ah sì?» disse. «Che indicazioni?» «Ben volentieri, cose della radio, mi immagino». «No, non della radio». Mi passò davanti e andò a sedersi nell'angolo del divano. «Allora che cosa?» Senza guardarlo, lo vedevo appena nella specchiera di fronte, gli dissi che avevo intenzione di scrivere qualcosa su quegli scrittori napoletani che anche lui conosceva e il cui nome era uscito dalle colline di Napoli e suonava gradito a Milano o Roma. Nello specchio vidi che il suo volto sudato e sottile trasaliva e gli occhi si aprivano avidamente, come chi scopre qualcosa di lucente davanti a sé. Ma la sua voce, quando parlò, era assolutamente indifferente e calma. «Prisco, Rea, naturalmente». «Sì, ma anche Incoronato e la Capria», dissi. «Capisco. Non ce ne sono altri, mi pare». «No, no, non credo». «Sai, è per un settimanale illustrato», credetti opportuno spiegare. «Il pubblico adora volentieri questi nomi. Per quanto ne possiamo vedere la fatuità, questi desideri del pubblico rimangono importanti». «Lo credo anch'io», disse. Mi parve che lo specchio si fosse offuscato. Il giovane funzionario della RAI appariva in quella lastra impercettibilmente impallidito e prostrato, come stanco, e lasciando di fissare lo specchio, cautamente mi girai per guardarlo. Benché non fosse possibile, qualcosa in pochi minuti era mutato terribilmente nella sua persona. La statua che mi aveva aperto la porta ora era viva e tremava. Sembrava che ai suoi piedi egli vedesse qualcosa di molto grande. Il volto, con gli azzurri occhi abbassati, spirava nella sua finezza un'attenzione assolutamente eccezionale. Tutto quel bel viso fine, levigato, precocemente invecchiato dalla malignità e dalla noia, adesso era sveglio e pensava. Quel corpo seduto, leggermente sbilanciato e torto dalla infermità, pareva perdere di attimo in attimo la sua fiacchezza e impassibilità, come se stesse per gettarsi contro qualcosa. Egli mostrava una specie di assonnata disperazione. Lo fissavo attenta, pronta a un gesto, una parola che potessero, uscendo da quel malessere, cercare di colpirmi, e intanto domandavo: «E tu? Non scrivi più niente?» «Per ora no», rispose in fretta come svegliandosi. Si alzò, andò vicino alla porta d'ingresso, rimase qualche momento a guardare attraverso i vetri la via Galiani e poi tornò indietro. Io mi ero pentita di quella domanda e lo guardavo confusamente. «Avrai bisogno di notizie, dico notizie precise, dati per il tuo articolo», disse umanamente. «Sì», mormorai. «Notizie, dati». Il suo volto era dolce, buono. «Allora hai sbagliato», disse sorridendo. «Io non ne ho». Tornò a sedersi con una gamba sull'altra all'estremità del divano. Un bambino che scorge una tigre nella sua stanza o un ragno enorme sul cavallo a dondolo, ma che per qualche motivo profondo non può mostrare di aver visto l'oggetto del suo spavento, non si sarebbe comportato in maniera diversa. Anzitutto, egli evitava costantemente di guardarmi. Inoltre era inquieto. Era come se, vedendo in me qualcosa di nemico, ascoltasse voci di campane salire dal pavimento. Eppure regnava nella stanza una quiete assoluta. «Luigi», ripresi dopo qualche momento, fissando il quaderno che avevo sulle ginocchia e fissandolo molto attentamente, benché fosse solo un povero quaderno, «potrai darmi almeno qualche notizia sulla tua vita? Ti confesso che le ho quasi dimenticate. Eppure sono importanti. Vorrei parlare anche di te in questo articolo». «Ah», disse. Poi soggiunse: «Perché?» E come io non rispondevo: «Perché mai?» In quel momento la porta si aperse e vestita di giallo entrò la giovane moglie del funzionario. Ella non aveva l'aria di chi riceve una sorpresa. Forse mi aveva sentita dalla cucina e non era venuta subito perché intenta a rigovernare o a dare la cena al bambino. Era vestita di giallo, con un volto di pittura moderna, liscio e senza rilievo, dallo sguardo calmo, privo di sorriso come di pensiero. Fragili capelli, che lasciavano vedere il cranio, le intenerivano l'alta fronte. Entrata per dire qualcosa a Luigi, vedendomi se ne dimenticò, e asciugandosi in fretta le mani, che aveva umide nel grembiule, mi si accostò e... «Oh, come ti trovo bene!» cominciò a dire. «Da quanto non ti si vede in giro? Proprio ieri sera a te pensavo», fissandomi con i suoi occhi estremamente tranquilli e pallidi. Luigi, al suo apparire, si era rannicchiato in un angolo, senza più parlare, facendo scricchiolare pensosamente ora questa, ora quella mano. «Forse vi ho disturbati», disse la giovane avvertendo il nostro bizzarro silenzio. Pensava e guardava con lentezza. «Luigi, dai, non fare così con le mani», soggiunse dopo un momento. «Scusami», disse in fretta il funzionario, e lasciate ricadere le mani e poi rialzatele, se le guardava con la sua aria ossessa di sempre. «Scusami». «Vi ho interrotti mentre parlavate, è una cosa importante?» riprese quietamente la signora. «Affatto», rispose Luigi. «Affatto. Lei», e mi indicò con la mano, «dovrebbe scrivere un articolo sugli intellettuali residenti a Napoli ed è venuta a chiedermi certi suggerimenti, notizie. Tu glieli puoi dare?» chiese la signora avidamente. «Certo che posso farlo», rispose il funzionario sorridendo. «Ella non gli vado più». «E di Luigi parlerai?» disse rivolta a me con uno sguardo più limpido ma freddo. Calcolava mentalmente ciò che avrei potuto fare per lui. Nella sua voce sommessa c'era un impercettibile fremito, una domanda. «Non sa farsi valere», continuò con un principio di agitazione. «Del denaro non gli importa, come se non avesse una famiglia. E sì che non scrive peggio di altri. L'altra sera, tu non c'eri, si è messo a leggerci il primo capitolo di un romanzo che ha cominciato nel 44. C'erano qui anche Le Caldano, Barra, e l'hanno trovato divertente». Dalla cucina sentimmo il bambino strillare. «Mammina! Ai, mammina! Torno subito!» «Diglielo intanto, hai capito?» mi raccomandò la giovane uscendo. Rimasti soli, vidi che Luigi aveva abbassato il capo. Luigi non mostrava più di ricordarsi di quei suoi disperati «perché? Perché mai?» che per un momento lo avevano rianimato. Qualcosa si era frantumato in lui. L'ansia di poco prima si era spezzata e il silenzio era ritornato a governare la sua memoria. Anche la mia presenza aveva smesso di turbarlo. Gli era divenuta perfettamente indifferente. A un tratto si alzò, raggiunse con il suo passo di volatile stanco il vecchio tavolo, rimescolò un poco tra certe carte e poi ne tolse una paginetta su cui doveva aver scritto qualcosa. La mano gli tremava impercettibilmente, come quella di un vecchio, quando, stringendo il foglio, mi domandò se avessi una matita e un quaderno. «Queste sono notizie di Rea. Le avevo segnate qui per mio uso. Purtroppo soltanto di Rea. Ma sarai d'accordo anche tu, del resto, che Rea è molto importante, anzi che non esistono altri scrittori a Napoli fuori di lui». Non risposi subito. Poi, vedendo che aspettava, «Ah, sì», dissi. «Certamente». Mi fissò un momento con ansia, poi cominciò a passeggiare su e giù per la stanza, col suo passo vacillante e frenetico, e intanto dettava. Dettava con la sua voce incredibilmente fredda, meccanica, monotona, eppure trasparente di odio e dolore. Quasi ogni parola ribadisse un'antica sentenza di morte sotto la quale egli stava. E, dettando, ora guardava la carta, ora gettava verso il soffitto degli sguardi profondamente tristi e inquieti. Ecco ciò che trovo segnato nel mio taccuino. Notizie in merito allo scrittore Domenico Rea. Rea è nato a Nocera Inferiore, l'8 settembre 1921. Ha già scritto 3 libri, Spacca Napoli, Le Formicole Rosse e Gesù Fate Luce. In autunno uscirà un altro suo libro, che gli fu richiesto dalla casa editrice Fabbri di Milano. Questa casa edita di preferenza libri di carattere pedagogico e scolastico. Questo Fabbri, che dirige la casa, chiese un libro di carattere pedagogico a Domenico Rea, perché entusiasta di alcuni racconti del Rea che avevano il mondo infantile come personaggio. Rea ha scritto così L'Anticuore. Il titolo è dell'editore e a questo proposito Rea tiene ad affermare la sua illimitata stima per De Amicis. Se Rea avesse dovuto scegliere un titolo, gli avrebbe dato però I 51. Si tratta infatti della storia di 51 ragazzi che stettero con Rea alla scuola elementare. «Alla scuola elementare», ripete Luigi. Le sue parole erano andate spegnendosi a poco in una specie di mormorio, sia per effetto di un rompersi della tensione, sia a causa di certe voci e figure che venivano movimentando da qualche momento l'attigua strada, vagamente visibili entro lo scialbo riquadro del vetro. «Guarda, guarda», gli sentì dire a un tratto pensosamente. Aveva abbassato la mano che stringeva il foglietto e si era accostato con curiosità ai vetri. Mi alzai e guardai anch'io. Veniva avanti, per via Galiani, un gruppo di ragazzetti del vicino borgo marinaio, scalzi e arditi, e li precedeva una bimba di forse 7 anni, completamente rapata e vestita di un solo cencio grigio, che le veniva fin sui piedi, lasciando scoperto il petto, a modo di una dama. Questa, che doveva essere una specie di capo della turba, portava in mano un bastone, in cima al quale splendeva debolmente, tutta dorata, una piccolissima immagine di Sant'Antonio. Essendo ancora la settimana in cui era stata celebrata la festa del santo, andavano lei ed i compagni chiedendo in suo nome un'offerta ai passanti, e così passeggiando ed elemosinando emettevano un grido pieno di risa, una supplica buffonesca e desolata insieme, parafrasando uno dei tanti inni cristiani alla Vergine. «Virgo predicando, abbi di noi pietà!» E insistevano su quel pietà torcendosi dalle risa. «Guarda, guarda!» ripete Luigi. E aggiunse «veramente divertente!» E dopo un poco «come colore perfetto!» Mentre diceva questo, la ragazzina, come un mostro da baraccone assalito da un capriccio improvviso, lasciò rapidamente il gruppo e con una mano tesa, sudicia, falsamente implorante, la bocca senza denti aperta in una risata muta, avendo intravisto il giovane, salì di corsa i pochi scalini, si accostò ai vetri con la gonna in mano e fece un inchino. Quindi sputò. La saliva scendeva ora lungo il vetro e Luigi la guardava. Insieme ascoltavamo il rumore di quei passi scalzi e quelle risa infantili, corrotte e dolci, che si allontanavano. Rientrò Anita. «Ho pensato», disse venendo avanti, «che potremmo andare tutti da Rea stasera». Si interruppe, come già la prima volta, vedendoci silenziosi. «Ah, ma qui non ci si vede», disse, e girò l'interruttore della luce e la prima cosa che vide, chissà perché, fu il vetro e lo sputo. «Hanno sputato», disse Luigi, «certi ragazzi». Così dicendo, tornò a sedersi nell'angolo del divano. Vi fu un silenzio. Ella evitava sempre di perdersi in considerazioni inutili. Perciò, rivolgendosi a Luigi, disse «Tu non vieni?» «No, sono stanco». «Allora vado da mia madre». «È meglio», disse gentilmente il funzionario. Ella sembrava perplessa. «E questo cos'è?» chiese curvandosi e prendendo da terra il foglietto di carta, chissà come caduto con le notizie di Rea. «Ma non so, forse una nota del lattaio». Si sentì ancora il bambino strillare. «Va bene, arrivederci», disse lei lasciando ricadere il foglietto. «Noi ci vediamo ancora, eh?» disse salutandomi. «Guardami sulla testa», disse Luigi quando la giovane fu uscita, con una pazienza e un terrore infiniti, sforzandosi a una calma del tutto innaturale. «Non ho nulla, nulla di bagnato. Nulla, ti assicuro. Perché mi pareva... sentivo...» Egli balbettò. «Ora vattene, vattene». Appena fuori di casa mi misi a correre. Sentivo delle lacrime appena trattenute da una cosa più forte. Una paura indefinita di quell'aria così dolce, quel cielo così chiaro, quelle colline lunghe come lunghe onde che chiudevano nella loro serenità tante inquietudini e orrori. Eppure tutto sembrava così gaio e armonioso. Non solo la via Galiani, ma da un momento all'altro anche la interminabile riviera di Chiaia era mutata, dove prima non scorgevo che regolarità e una pietrificata desolazione. Adesso tutto era disordine, un cupo incanto. Non presi nessun tram, mi avviai a piedi e, per dire la verità, non sapevo più dove fossi. Era l'ora che Napoli si accende, gonfia come una medusa, e le sue ferite risplendono, i suoi cenci si coprono di fiori e la popolazione barcolla. C'era, per le strade, un effetto di movimento e di eccitazione, che poi, guardando meglio, era nulla. Dai vicoli straripava la folla dei popolani, dei paria, e per le strade eleganti andava a confondersi con quella borghese e aristocratica che neppure mostrava fastidio o ribrezzo, perché non se ne avvedeva. Molti rimanevano semplicemente sulla soglia di quei vicoli che sono le vene di Napoli. Chi si soffiava con un cartone, chi dormiva allungato sul marciapiede con la bocca aperta, chi mangiava, chi cantava una nenia triste. Nelle stanze vicino ai letti c'era chi cucinava e sui letti chi, a volte anche un uomo giovane, disteso pensava. Quella parte del popolo che invece scendeva verso il centro in un inesausto desiderio di aria pura, di panorami, neppure parlava o vociava, come si favoleggia del popolo di Napoli. Zitti e stanchi passavano lungo i muri, con le loro facce irregolari e pallide, illuminati da occhi troppo grandi, come in una caricatura, e cerchiati, la pelle mal lavata e coperta di tele scolorite dall'uso e indurite dalla polvere. Non avresti detto che fossero svegli, ma che in un sogno oscuro si agitassero. Chi allora o che cosa produceva quel vago, continuo rumore che movimentava l'aria della città come il vento se percuote le onde? Erano le radio, i pianini, i violini agli angoli delle strade, le ruote delle carrozze sul selciato, i clacson delle macchine, l'urlo inutile di un cane preso a sassate da un ragazzo. Erano il ragazzo che si rotola nella polvere, sua madre che racconta un sogno a una vicina, due ragazze che parlano di un uomo. La città si copriva di rumori a un tratto per non riflettere più, come un infelice si ubriaca. Ma non era lieto, non era limpido, non era buono quel rumore fitto di chiacchierii, di richiami, di risate o solo di suoni meccanici. Latente e orribile vi si avvertiva il silenzio, l'irrigidirsi della memoria, l'andirvieni impazzito della speranza. Non sarebbe durato molto e difatti a poco si spense. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.